Sabato 23 febbraio siamo al Cippio Arialdo di Cosenza, dove sta per avere inizio la discussione sugli 11 anni del processo al Sud Ribelle. Infatti il prossimo 23 febbraio si terrà a Roma, alla Corte di Cassazione, l'ultimo atto di questo processo. Processo che, lo ricordiamo, ha coinvolto numerosi attivisti, soprattutto meridionali, in relazione agli scontri di Genova durante il G8 del 2001. Le varie tappe del processo hanno sempre visto la stessa conclusione, ovvero tutti gli imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Ad ogni modo, questo teorema, partito da Cosenza, continua ancora a essere portato avanti, malgrado sia evidente la sua infondatezza. Ne parliamo dunque al Cippio Arialdo di Cosenza con questo speciale di Indie Radio, che potete ascoltare solo su Transizione di Fase, la web radio libera ed indipendente. Buon ascolto e continuate a seguire Indie Media. Grazie per essere venuti. Buonasera a tutti. Sono qui in compagnia di Claudio e di altri compagni. Cerco per ricordare che il 23 ci sarà il processo in Cassazione dei No Global. Cercheremo di raccontare un po' quello che era e quello che è stato il G8 di Genova, grazie alle testimonianze di chi l'ha vissuto, di chi è stato vittima anche di un complotto, un teorema. Cerchiamo di partire da Genova, di capire i motivi che hanno portato al G8, quali sono stati, perché si manifestavano quei giorni e cosa si voleva dire, e cercando anche di riattualizzare e capire se ancora oggi sono attuali quelle tematiche e se quello che dicevano i ragazzi e i compagni che erano a Genova si è verificato o meno. Passo la parola al dottor Claudio. Allora, io vi ringrazio. Bisogna stare attenti perché se pigliamo la scossa ci rimaniamo attaccati. Cincinnato sta facendo salti mortali. Purtroppo dobbiamo annunciarvi che Francesco Caruso non ci sarà. No, Francesco è partito per l'India, mi pare. Un attimo di serietà, mi fa enorme piacere vedere che fra i compagni stasera ci siano pure ragazzi, compagni più giovani, no? Amici che sono. Perché significa che a distanza di 10 anni, nonostante tutto, di questa storia la memoria non si è persa. E vi lancio subito un invito concreto. Siccome con Maria Fortino stiamo lavorando per costruire una mostra sulle giornate di Cosenza e renderla fruibile entro novembre di quest'anno, quando esattamente ricorrerà il 10° anniversario dei nostri arresti e della grande manifestazione che ci fu a Cosenza il 22 novembre. Volevo insomma lanciare l'appello sia ai compagni che hanno vissuto quelle giornate, sia a quanti invece ne hanno solo sentito parlare, di darci una mano nei limiti del possibile a costruire insieme questa mostra. Saranno 30-40 pannelli, composti per lo più da fotografie, ritagli di giornali dell'epoca, oltre che dei titoli dei testi didascalici che raccontano quello che accadde. A noi le commemorazioni non piacciono, però quello che è accaduto a Cosenza 10 anni fa non deve assolutamente passare nell'oblio, perché è stata una piccola rivoluzione. Ve lo dico io che non ho avuto il piacere di viverla tutta dal vivo, perché sono stato una settimana dentro e sono uscito giusto per quando c'è stato il corteo. Vi basti pensare che il titolo del manifesto, nel giorno successivo alla manifestazione di Cosenza, era a 9 colonne, a tutta pagina, Revolution, con la foto del corteo di Cosenza. È una pagina di storia che bisogna tramandare alle future generazioni. Ogni tanto una cosa buona i movimenti la fanno, e perché dobbiamo dimenticarcela? Allora faremo questa mostra e cercheremo di tirarne fuori pure una piccola pubblicazione. Come fatto? Invitare a avvicinarsi. Stiamo, va bene così. Se vogliamo darci un tono più assemblare è meglio, però come volete voi, insomma. Poi Giuseppe, se dopo voleva intervenire, anche Sì, no, no, questa cosa magari te la rubo, nel senso che io ho pregato Giuseppe di venire qui stasera, sarebbe venuto lo stesso ovviamente, però di farlo a titolo politico, ecco, di, non di sostituire Francesco, perché ognuno, ogni compagno ha la sua storia, il suo immaginario, perché stasera a me di solito a distanza di anni di questa storia piace parlare in maniera umoristica, per cui vorrei raccontarvi la storia delle fotografie pornografiche di Francesco Cirillo e Lidia, che gli sono state sequestrate. Sapete che durante questa vicenda, questa operazione, una volta sui giornali, dopo che ci avevano già arrestato, è uscita la notizia: ecco, finalmente trovate le pistole dei No Global. Allora tutti quanti ci siamo spaventati, dici minchia, vuoi vedere che qualcuno ci aveva le pistole a casa? E poi il giorno dopo ci fu subito un chiarimento della difesa di Francesco Cirillo. Francesco, lo sapete, che è uno scrittore, un artista. Insomma, non dovrei raccontare questi fatti se non fossero pubblici, perché rientrano nella sfera privata sua. Insomma, lui è la compagna, che fra l'altro è una compagna che è stata coinvolta, ma lo faccio il nome, lei mi perdonerà quando sentirà, se non le ho chiesto il permesso per questo, è una compagna di cui ho grande rispetto, si chiama Lidia Zarita, che è stata arrestata insieme a tutti quanti noi, e non perché era la compagnia di Cirillo, per l'amor del cielo, ma perché Lidia era molto più militante e più convinta di Francesco di tutti quanti noi. Voglio dire che quello che sto per raccontarvi mi imbarazza perché attiene alla loro vita personale, ecco, non vorrei entrare nei cazzi loro, però visto che la procura l'ha fatto e visto che questa storia finisce sui giornali, ve la possiamo raccontare di nuovo. Francesco e Lidia facevano delle foto mezzi nudi, sono delle foto artistiche, e in queste foto loro erano ritratti con delle pistole, naturalmente delle pistole giocattolo. Quindi il semplice ritrovamento da parte dei carabinieri di queste fotografie diede la stura ai giornali, che raccontarono un sacco di cazzate all'inizio, cioè dicono: ah, allora le armi c'erano, se questi si facevano le foto con le pistole vuol dire che le armi le avevano. In realtà erano foto artistiche, non erano pistole giocattolo. Oppure, a proposito sempre di vicende paradossali che sono capitate in tutta questa storia, pizza con l'acciuga, la spiga di Sant'Agata, ci sarebbe la brigata drogata e delinquenti, c'è tutta una letteratura di stranezze, cioè per molti magari è difficile afferrare quello che stiamo raccontando. La volontà persecutoria che è stata prodotta e manifestata più volte da parte delle autorità investigative della Digos, del ROS, ha portato queste persone, col passare degli anni, dagli arresti, prima, durante e dopo la vicenda degli arresti, a coprirsi un po' di ridicolo, perché non potendo inventare elementi concreti di prova, indizi, testimonianze, lavoravano molto sull'immaginario, e ogni po' di tempo, un po' di mesi, tiravano fuori queste cazzate astronomiche. Appunto, Michele fu accusato di provocare violentemente la polizia nel Global Forum di Napoli, che avvenne nel marzo del 2001, con una spiga di grano, Cirillo con una zucca, perché c'era tutta una campagna sulla questione degli OGM, dei cibi transgenici, si entrava nei McDonald's con le pecore, si offriva broccoli di rapa e salsiccia agli utenti del McDonald's per cercare di contrastare la globalizzazione alimentare. Insomma, loro tutto quel bagaglio di ironia, di forte umorismo, di creatività, di anni 70 in senso veramente immaginifico, che noi riportavamo nelle nostre lotte, si divertivano a trasformarlo in elementi di prova, fino a commettere degli errori grossolani. Una volta Francesco Noto, qui presente, che poi durante le udienze del nostro processo una volta sarà anche schiaffeggiato da un poliziotto, ci sarà un parapiglia, un tafferuglio vero e proprio all'ingresso della porta della corte d'assise, perché questi ogni tanto provocavano durante il processo in corte d'assise. Beh, una volta Ciccio, che era il nostro perito nominato, cioè il nostro assistente degli avvocati, andò a prendere, perché sapete che quando vi arrestano la legge vi dà la possibilità di prendere atto dei documenti, degli atti che sono a sostegno dell'inchiesta che ha portato al vostro arresto, no? Allora Ciccio andò a prendere questi materiali e a un certo punto si ritrovò sul proprio computer la copia dell'hard disk del pubblico ministero Fiordalisi, che per sbaglio, cioè, aveva fatto duplicare la cancelleria del tribunale, poi ci sarà Ciccio a spiegarvi bene tecnicamente che cosa è avvenuto, cioè noi ci siamo ritrovati una copia dell'hard disk riservato del PM durante le indagini. Non capiremo mai se l'abbia fatta apposta o se semplicemente lui era quello, e quindi non è che si può aspettare, però insomma, un PM che ti regala il suo hard disk durante le indagini è qualcosa di strano. E non lo so, oppure quando, non la voglio fare lunga, ma sono tutti episodi che quando ci penso insomma mi fanno sorridere, quando nel tribunale del riesame di Catanzaro a un certo punto entrò il capo della Digos all'epoca, Alfredo Cantafora, anzi entro il PM, ma due o tre ore prima, a sorpresa, la Digos si era presentata a casa del professor compagno Antonino Campenni ad Arcavacata. Tenete presente che ci avevano arrestato quasi un anno prima, cioè questa storia oramai era una situazione abbastanza a sé stante. Una mattina alle 5 arriva la Digos a casa di Antonino. Entra in casa e dice: senta professore, dobbiamo riprendere la sua agenda. Quale agenda? Quella che mi avete sequestrato l'anno scorso. Sì, sì, ce la dobbiamo riprendere. Ma l'avete sequestrata, la vogliamo di nuovo. Prendono questa agenda e a distanza di 3-4 ore nella corte d'appello di Catanzaro, al tribunale del riesame, dove si discuteva sugli obblighi di firma, qui erano sottoposti Cirillo, Michele, Caruso. A un certo punto il PM entra e dice: signor Presidente, finalmente abbiamo trovato le prove dei collegamenti fra i No Global e le Brigate Rosse. Dice: questa è l'agenda del professore Campenni. Allora il PM, noi restiamo sbigottiti, anche quella volta dice: ma vuoi vedere che avevamo contatti con tutto il mondo, non è da escludere che ci fossero dei contatti anche con alcuni tipi di situazioni, ecco, insomma, per cui non si aspettava di tutto. A un certo punto andiamo a guardare, il giudice dice: scusi, ma come fa ad affermare questo? Allora il PM dice: la Digos di Cosenza ha fornito ampia documentazione. Se lei prende questo signore che si chiama questo nome, questo è un nome criptato, guarda sull'agenda di Antonino, sulla rubrica telefonica, dice: questo si chiama Andrea. Dice: allora le dico il numero di telefono. Dice: allora lei somma la prima cifra alla seconda, poi sottrae la terza, toglie la quarta, mette la quinta e viene fuori il numero di telefono di uno di quelli che sono stati recentemente arrestati per le Brigate Rosse. Allora silenzio di tomba in aula, gli avvocati chiedono un attimo di sospensione, allora tutti ci circondiamo Antonino, gli chiediamo: ma di che cazzo è sto numero di telefono che ci avevi sull'agenda? Uno degli avvocati dice: scusate, facciamo il 412 e vediamo. Quindi telefoniamo a questo numero ed era uno studente di Cosenza che vive a Pisa, che aveva avuto con Antonino dei rapporti, perché Antonino gli dava una mano a scrivere la tesi. Io sto cercando di raccontarvi le prime cose, le prime che mi vengono in mente e che mi fanno ridere e sorridere. Di questa storia si potrebbe veramente oggi ridere se non fosse per il fatto che, vabbè, intanto c'è una Cassazione da affrontare il 23, è il motivo per il quale siamo qua stasera, e poi io ho portato qui dei documenti, vi leggerò brevissimi brani, però che sono di grande attualità, perché questo è uscito qualche tre mesi fa e riguarda anche il rialzo, l'occupazione delle case, uno dei processi che staremo per affrontare nel luglio di quest'anno. Questa è una vicenda mia personale, ma che ha a che fare col politico, ve la voglio raccontare per farvi capire in che mondo viviamo. E se non fosse per il fatto, e veniamo a Pino, che Pino due settimane fa ha subito a casa sua, poi ve lo dirà lui, dai, se no la facciamo lunga, non è vittimismo, vogliamo semplicemente dire che le cose di cui ci stiamo occupando, si prende la scossa, una cosa tremenda, che le cose di cui ci stiamo occupando sono estremamente serie, ma non perché ci devono mettere paura, ma perché devono farci capire che viviamo in una democrazia finta, che lo Stato di diritto è solo un principio teorico, che in questo Stato, ancora oggi, in questa società, si militarizzano le lotte, si reprimono le persone sulla base delle loro idee. Sentiamo spesso parlare di decreti svuota carceri, di amnistie. Quando è a Cosenza faremo un ragionamento, a Cosenza, in tutta Italia faremo un ragionamento sui reati sociali, o comunque sui reati politici legati alle battaglie sociali, perché solo in questa città, in questo momento, sono aperti qualcosa come 6 procedimenti penali a carico dei compagni e delle compagne che lottano per i beni comuni, per i diritti dei migranti, per gli spazi sociali, contro la precarietà, contro la devastazione dell'ambiente, della terra in cui viviamo. Beh, cioè dovremmo chiederci se ha senso che in una società come la nostra, ancora oggi, chi lotta per, chi porta avanti delle battaglie di libertà debba essere schedato senza motivo, debba essere identificato e portato via. Beh, qual è la differenza fra l'Italia e la Siria, fra l'Italia e la Grecia? Attaccalo tu. No, coraggiosissimo. Allora, vabbè, io vi propongo, prima Stefano in breve ha spiegato che, vedo che c'è Michele, ci parlerà della spiga di Gran Turco, della zucca, della mascherina. Michele era il patrono dei Black Bloc, praticamente loro avevano deciso che c'era Santa Agata, perché Michele fa Sant'Agata di cognome, e quindi avevano eletto questa Sant'Agata patrono dei Black Bloc, per cui in questo teorema ogni volta che si parla di questi fantomatici Black Bloc appariva Michele, che insomma dava la sua benedizione e si procedeva poi con la devastazione dell'ambiente. Ma guarda, cioè, io qualcuno dei compagni più giovani forse pensare che io stia esagerando. Guardate che le cose che ho appena raccontato sono scritte e recano tutto il timbro del Tribunale di Cosenza, della Procura, cioè l'istituzione di questo Stato, di persone, firme di persone che oggi sono state promosse e, vabbè, che hanno avuto degli avanzamenti di carriera. Allora io direi, facciamo così, per inquadrare storicamente la vicenda, se riusciamo a partire da cosa che ha fatto da Genova, ecco, da Genova, che è quello che diceva prima Stefano, è difficile raccontare Genova in due parole, sicuramente quale fu il moto politico, quale fu lo spirito che ci portò a partecipare a quella grande mobilitazione. Beh, intanto una sensazione che i beni comuni, che la vita, la natura, i nostri corpi fossero seriamente minacciati dai processi di accumulazione capitalistica, dal credo neoliberista, dalla convinzione secondo la quale nel mercato e nell'economia esiste la società più ricca, prospera, felice. Bene, oggi a distanza di 10 anni possiamo dire che quella era una grande cazzata, che quella narrazione, quel racconto giornalistico, pseudofilosofico di chi voleva convincerci a tutti i costi del fatto che più si investe, più si spendono, più terreno si mangia, più aria si sottrae alla natura, meglio stiamo. Oggi a distanza di 10 anni vediamo i risultati di questo modo. Ebbene, quel movimento andò a Genova per dire anche questo, anche e soprattutto questo. E poi quel movimento nasceva perché c'era una profonda crisi della rappresentanza politica per come la intendevamo in precedenza. Prova ne è il fatto che in piazza scesero veramente soggettività, correnti, movimenti, realtà provenienti da culture differenti, cioè che avevano anche un cammino diverso, però che ebbero la sensazione che bisognasse stare tutti insieme in quel momento e parlarsi e scambiarsi dei contenuti e scendere insieme in piazza con delle forme che erano radicali, soprattutto essere in tanti. Vedrete nelle immagini che stiamo per mandare, che sono 10 minuti che racchiudono un po' tutti i cortei di quegli anni, non solo Genova, anche qualcosa che è avvenuto prima ed è avvenuto negli anni successivi. I numeri erano sempre 100.000, si partiva da 100.000 in piazza, cioè non c'era la manifestazione in cui anche numericamente dammi una sensazione di grande potenza, fino, non lo so, al Social Forum di Firenze, in cui fummo più di 1 milione, 1 milione e mezzo, fuori dai partiti, fuori dalle organizzazioni strutturate della sinistra. Era un po', si coronava il sogno di una parte degli anni 70, quella di riuscire a fare politica fuori da schemi predeterminati. E poi c'era la voglia di mettersi in gioco come persone, cioè di non separare più l'utopia dalla vita reale, di non limitarsi più a sognare un mondo, ma di provare a costruirlo giorno dopo giorno concretamente nelle associazioni, nelle organizzazioni non governative, negli spazi sociali che esistevano all'epoca. Allora, le immagini che state per vedere si riferiscono a quel periodo, ogni tanto vedrete sottotitolato un pezzo del teorema Fiordalisi che parla di cospirazione politica e vi farete un'idea, poi magari torniamo a fare una chiacchierata. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Stiamo trasmettendo lo speciale realizzato da Indie Radio in occasione dell'assemblea al CPOA Rialzo di Cosenza in relazione al processo di Cassazione alla rete del Sud Ribelle. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase. Manifestazioni, una il 27 novembre del 2004, una il 2 febbraio, se non ricordo male, del 2008, manifestazioni di alcune migliaia di persone. C'è stato un corteo eretico straordinario, dovrebbe essere nel 2003-2004, con alcune centinaia di studenti e noi vestiti da buffoni, da pagliacci, da streghe, da eretici, da patrioti, un po' di tutto. E poi ci sono stati momenti significativi dal punto di vista della solidarietà nei nostri confronti, nei confronti di questo movimento. Se pensiamo, io ci pensavo proprio ieri, al grande concerto che tennero i Modena City Ramblers nella Città dei Ragazzi, dove io ricordo gente che veniva e nemmeno entrava a sentire il concerto, però lasciava i soldi e andava via, perché voleva sostenere le spese legali del nostro processo, dei compagni che, insomma, noi non abbiamo mai speso dei soldi, nel senso che non li abbiamo mai dati direttamente nelle tasche dei nostri avvocati, se non le spese vive. Però voi capite bene che gestire un processo che si articola in diversi anni e muovere 10-20 avvocati da una parte all'altra d'Italia comunque comporta delle spese. Bene, per affrontare queste spese la città all'epoca, a distanza di anni, quindi fuori moda, diede un grande contributo di solidarietà. La cosa più bella fu la partecipazione dei quartieri. Io mi ricordo i ragazzi di Pane Bianco che facevano servizio d'ordine, che fino a tarda notte ci diedero una mano e la mattina alle 6 ci aiutarono a ripulire, perché all'epoca, quando si organizzavano i concerti, i compagni poi dovevano ancora oggi devo dire, no? Ma anche quando c'erano 2-3 mila persone, i compagni dovevano alle 4-5 del mattino mettersi a pulire, non c'erano le squadre di operai, le cooperative che si chiamavano, e quindi insomma, vabbè. Vado direttamente alla domanda che ti volevo fare. Guardando questo video, mi è venuta subito in mente sia il 15 ottobre di Roma che in questi giorni la Grecia. C'è un collegamento fra Genova o qualcosa che richiama queste due date? Sì, le domande che ponevano quei movimenti sono ancora tutte senza risposta. Quella fu una straordinaria insorgenza sociale di massa, qualcuno la chiamò moltitudine, che chiedeva l'allargamento dei diritti, che chiedeva la ridistribuzione del reddito, il rispetto della natura, l'esercizio dei beni comuni. Sono tutte questioni che sono rimaste ancora sul tavolo. Io poi sono un pessimo sociologo, non so esattamente quali siano le differenze in termini sociologici tra quel movimento, tra quei movimenti e quelli che si sprigionano oggi. Ci sono molti aspetti in comune. Pensiamo solo alla mobilitazione per la Valsusa, poi magari questo servirà ad introdurre la questione, il tema di Pino, che è qui con noi, e la manifestazione che ci sarà a sostegno dei compagni il 25 prossimo, no? Due giorni dopo il sit-in di Roma. Non dimentichiamo che questi compagni negli ultimi giorni sono stati deportati dalle carceri in cui erano detenuti, nelle carceri speciali, semplicemente perché stavano attuando delle forme di protesta, perché lo Stato ha avuto la percezione che intorno a loro si stesse coalizzando un'area vastissima di consenso e di solidarietà. Questo è un giochino che hanno fatto anche a noi, in senso trasferiti da un carcere all'altro senza preavviso, fatti spogliare la notte. Io non vorrei però, ecco, impaurire i compagni più giovani che ci sono qua, perché sembra che stiamo parlando appunto dell'Argentina, del Cile. È giusto che comunque ci sia una memoria storica. L'altra volta si parlava della giornata della memoria. Giusto che ci sia un giorno in cui si ricorda lo sterminio dei Rom, degli ebrei, degli omosessuali, dei compagni, degli oppositori politici, dei diversamente abili, delle persone affette da disagio psichico. È giusto che ci sia un giorno in cui si ricorda, sì, però il problema è che in Italia prima o poi bisogna anche ricordare quello che è successo nelle carceri di questo Stato e nei tribunali negli anni 70, cioè una generazione che è stata torturata, martoriata, costretta a scappare. È una generazione che forse oggi sarebbe divenuto il ceto politico al potere per l'intelligenza, la creatività che sprigionava. Beh, sono stati costretti a scappare un po' in giro per il mondo quando non sono stati ammazzati sotto casa o torturati o perseguitati in mille forme. Nel video per fortuna avete visto che insomma stare nei movimenti non significa solo beccarsi delle pallottole, non significa solo trovarsi questi signori alle 4 del mattino, ecco. Questi movimenti sprigionavano e liberano ancora oggi una grande energia rigeneratrice, una grande forza, una gioia, no? E l'avete visto, io volutamente ho mescolato con un linguaggio o con un montaggio alternato manifestazioni apparentemente distanti tra di loro, cioè la difesa dell'articolo 18, la lotta contro la guerra, le manifestazioni di Villa San Giovanni contro il ponte organizzate dai compagni della zona di Gallico, di Reggio, i sit-in davanti alle CPT di Lamezia Terme, quindi aspetti molto locali di queste mobilitazioni mescolati a grandi manifestazioni di massa che si sono tenute per lo più insomma a Roma in quegli anni. E io ci ho visto insomma, dei tratti comuni, poi su questo possiamo ragionare. Però, diceva bene Stefano, non bisogna lasciarsi ferire troppo lo sguardo dai colori oscuri o vivaci che questa stagione di lotte hanno prodotto, no? Queste stagioni di lotte hanno prodotto. Ma bisogna cercare di badare molto anche ai contenuti di quelle manifestazioni. In fondo, loro ci accusavano di aver organizzato una rivolta, di essere stati coloro i quali poi l'hanno non solo pianificata ma anche messa posta in essere, come dicono i carabinieri in questi casi, e poi ci davano una serie di altri capi d'accusa, il fatto di aver impedito le funzioni di governo, la responsabilità morale dei morti, dei feriti, della gente che fu. Non ricordiamo che Genova non è, cioè il nostro processo è l'ultima sciocchezza da un punto di vista giudiziario di quello che è avvenuto dopo Genova. Se pensiamo che ci sono dei compagni che sono stati condannati per reati assurdi, il reato di devastazione, è un reato del codice del fascista durante la guerra, cioè una persona che ha rotto una vetrina si ritrova a essere come uno sciacallo che entra nelle case degli sfollati dopo i terremoti, Cioè, evidentemente è una forzatura, eppure in base a questa forzatura, a questo arbitrio, hanno condannato i nostri compagni a 10-15 anni di galera. Se la Cassazione dovesse confermare queste condanne, questi compagni dovranno fare il carcere prolungato. Questo è solo il primo dei procedimenti giudiziari aperti che mi vengono in mente. Ma il famoso processo ai 25, no, Ciccio? Ma che si è celebrato a Genova. Ma pensiamo, non lo so, alle torture e alle violenze avvenute nella scuola Diaz. Io sono scampato per miracolo, io di solito nella vita le botte, le cariche loro, le iniziative repressive me le sono beccate tutte, sono uno sfortunello, uno scarognato, un disgraziato da questo punto di vista. La Diaz me la scampai per un miracolo, perché ero con questi compagni di Reggio, eravamo stanchi morti dopo 3 giorni di quello che avete visto, e uno di loro mi disse: ma dai, ma vienitene con noi. Io rimango a dormire qua, poi domani mattina riparto. Dove vai? Alla scuola Diaz. No, ma vieni con noi, vieni con noi. Questo compagno era Mimmo di Reggio, partì con loro. Dopo 2 ore di viaggio ci arrivò una telefonata di Anna, che assisteva, perché lei era nel Media Center, che era un edificio di fronte alla scuola media, quindi loro hanno assistito in diretta alla mattanza, alla brutalità, alle persone trascinate per i capelli e massacrate di botte. Beh, la Diaz, e ancora la caserma Bolzaneto. Stiamo raccontando disgrazie perché, appunto, ripeto, i compagni che sono qui stasera per fortuna hanno un'età inferiore a quella di solito, no, che partecipa, dei compagni che partecipano a questo tipo di iniziative, per cui è giusto che ci sia anche la memoria della sofferenza. Però ve lo dico in tutta franchezza, in quegli anni nei movimenti si stava bene, non che oggi non ci si stia, cioè si aveva veramente la possibilità di incontrare soggetti, attivisti, persone che provenivano da mondi distanti dal tuo. Ecco, noi lì abbiamo veramente capito che non c'è un mondo solo da costruire, non c'è un sistema assoluto da affermare, non c'è un modello perfetto al quale la società, come diceva un signore, dovrebbe uniformarsi, no? Ma è possibile costruire tanti piccoli mondi in un sistema di democrazia deliberativa, partecipativa, mi verrebbe da dire reale, se non fosse un aggettivo un po' antipatico, ma insomma, comunque quella che noi praticavamo e tutto sommato che voi praticate, insomma, voi, la maggior parte di voi esce dai movimenti studenteschi degli ultimi mesi, che hanno dato una spinta forte dal punto di vista della ribellione in questo paese, no? E che le cose più interessanti negli ultimi 2 anni, 3 anni a Roma e nei territori sono venute fuori dal movimento studentesco. Lo dice uno che non è mai stato simpatizzante nei movimenti universitari e scolastici, sì, perché ho fatto la mia quota di casino alla vostra età, però non mi sono mai piaciuti i linguaggi dei movimenti universitari, perché li consideravo difficili, criptici, poco accessibili. Ecco, ho preferito sempre il linguaggio degli ultras o degli spazi sociali, come questo, come era il Gramna, come altri che ce ne sono stati e ci sono in questa città. Misurarsi appunto col problema di organizzare un concerto, il tetto che ti crolla addosso, i migranti che non trovano una sintesi nella loro resistenza. Ecco, tutto questo è il movimento. Cioè, i movimenti non sono solo scendere in piazza e passeggiare insieme. Quello è il momento in cui si scende in piazza per contarsi, per sapere che non si è soli e per far sapere al potere che non si è soli. Ma la manifestazione è veramente l'aspetto più superficiale di un movimento, dei movimenti come quelli e come questi di oggi, perché in realtà quello che tu costruisci ha una sua concretezza giorno dopo giorno nelle cose che fai, nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi in cui tu vivi. Quel movimento ci ha insegnato che non è possibile dissociarsi dalla propria natura, che tutti dobbiamo fare i conti con la soggettività e dobbiamo fare in modo di praticare le cose che diciamo. Insomma, io vado un po' a ruota libera, perché se parliamo di Genova è un po', per molti di noi è... Allora, per parlare del presente, così poi veramente do la parola a Pino, vi dico... Vai. Sì, faccio altre 2 domande e poi passiamo proprio la parola agli altri. Sì. Vabbè, la prima è, voglio chiedere se i pacchi bomba che ci sono stati ad Equitalia sono una novità. E poi la seconda, se... Ci sono dei compagni che anche oggi sono in carcere, come compagni della Notav, compagni che hanno partecipato il 15 ottobre a Roma e anche studenti del 14 dicembre. E l'esperienza che è stata, la tua esperienza nel carcere, è perché ho letto anche qualcosa di Cirillo e lui la spiegava pure bene questo. Sì, sul nostro arresto sono usciti 4 libri, uno l'ha scritto Francesco Cirillo, che si intitola I Fiordalisi e il Grillo Parlante. Il Grillo Parlante era lui, perché era il suo nickname nella posta elettronica, Francesco Cirillo Grillo Parlante, e Fiordalisi è il PM che avete sentito poco fa, che insomma parlava, che oggi è capo della procura a Nuoro, e lo stesso PM che archiviò, voglio ricordarlo ai più giovani, voglio comunicarlo ai più giovani, che archiviò la vicenda della nave Giollirosso, che brancolò nel buio sul barbaro e bestiale omicidio di Roberta Lanzino, perché lui insomma era responsabile di quell'inchiesta. Insomma, questo pubblico ministero, come spesso succede in Italia, ha fatto carriera, oggi è capo di una procura addirittura in Sardegna, e so che è titolare di un'inchiesta sul poligono di tiro nucleare. Giovanni Peta, che meglio di me si occupa di questioni ambientali, potrà spiegarvi. Comunque, combinazione, sto PM è sempre titolare in inchieste un po' imbarazzanti e delicate nella storia di questo paese. Cioè, o è molto bravo o gliele affidano perché pensano il contrario di lui. Ci deve essere uno delle due l'una. Però quando ci sono dei guai in giro c'è lui titolare. Vabbè, facciamo stare, non è di personale contro di lui, che in fondo era anche un po', era molto simpatico. Ecco. L'esperienza del carcere. Stamattina un mio alunno mi ha chiesto, professor, ma chi l'ha inventato il carcere? E sono un ragazzino di 12 anni, io non ho saputo rispondergli. Della serie, gli insegnanti spesso siamo completamente impreparati di fronte alle domande degli allievi. Mi sono sentito in grande imbarazzo perché abbiamo cominciato a parlare di carcere, loro mi facevano delle domande. I ragazzi di tutte le età, quando parli di carcere, rimangono bloccati, improvvisamente sanno che si sta parlando di qualcosa di serio, molto più degli adulti che spesso sparano dei luoghi comuni odiosi sulla questione carceraria, della serie, l'albergo a 5 stelle. Il carcere è il posto peggiore che possa esistere al mondo, e penso che esista una sola esperienza paragonabile alla privazione della libertà, un cancro terminale. Avendolo vissuto da vicino, perché purtroppo ho perso due genitori per questa malattia infame, vi posso dire che stare malati di cancro è come essere in carcere, con la differenza che se sei malato di cancro c'è qualcuno che ti può assistere, ti può dare una mano, ti può cercare di alleviarti le sofferenze. Se sei detenuto, nemmeno quello. Sei una bestia, non esisti, nessuno ti garantisce dignità. Voglio dire ai ragazzi che spesso in momenti di rabbia diciamo ma vaffanculo, se l'è meritato quello che stia in galera. Non si deve dire di nessuno, perché guardate che è veramente una barbarie indescrivibile il carcere. Io rimango convinto del fatto che la nostra società ne potrebbe fare tranquillamente a meno, e che la gente che sta in carcere soffre, ma soffre veramente. Io ho avuto la possibilità solo di starci una settimana, una vacanza breve, un tour, però nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere compagni e amici con cui sono cresciuto che hanno fatto questa esperienza anche da detenuti comuni, e ho capito tanto di questa esperienza, e non è assolutamente un'esperienza formativa. Spesso si pensa che per migliorarsi bisogna andare in carcere, una specie di università, e questa è un'altra grande cazzata. È un'esperienza assolutamente da evitare. Però bisogna avere una grande sensibilità nei confronti di chi ci vive in quelle condizioni di barbarie, perché guardate che veramente dal carcere, spiegatelo anche ai nostri genitori, a chi ce l'ha vivi, dalle nostre carceri non uscirà mai nulla di buono. Cioè, è vera questa cosa, la gente che uscirà dal carcere combinerà guai peggiori di quelli che aveva combinato, anche se non farà nulla di male. Noi penso che insomma in questa realtà detenuti con noi sono stati di straordinaria umanità, perché eravamo e siamo compagni, perché sapevano già tutti la nostra storia, perché quando finisci in carcere verso di te, se sanno che ci sei finito per un motivo ideale, di solito hanno un atteggiamento fra la compassione, l'ironia, la tenerezza, cioè è un misto. Un po' li fai ridere, un po' li fai piangere, non ti riescono a prendere sul serio, però ti stimano e ti danno solidarietà, perché capiscono che in fondo tu sei un dannato come loro, e che sei finito forse là dentro hai un attenuante in più, sei pure un po' folle, perché per uno che finisce in galera per motivi legati alla sopravvivenza, alla sussistenza, ai bisogni materiali, uno che entra perché lotta contro la discarica, contro il traforo, all'inizio sembra quasi un marziano, poi quando in carcere riesci a scambiarti qualcosa, capisci che non c'è nessuna differenza tra i cosiddetti reati comuni e reati politici, che sei insieme agli altri, tutti sei sulla stessa barca, devi sopravvivere, è una giungla in cui puoi essere aggredito da un momento all'altro, e solo se stringi rapporti di lealtà, di rispetto, solo se riesci a interpretare in modo corretto le regole invisibili che sono scritte in quel luogo, porterai il culo a casa, altrimenti rischi di lasciarlo lì per sempre, oltre che la testa. Quindi è un'esperienza vergognosa, soprattutto se penso a questi compagni che in questo momento sono detenuti a Cuneo per le lotte della Val di Susa. È veramente un oltraggio all'umanità arrestare la gente perché scende in piazza a rivendicare un diritto, che è quello a vivere, perché in Val di Susa si parla proprio dell'esistenza, quella che viene toccata è l'esistenza di intere comunità, la dignità di interi popoli, no? Di gente che vive lì da migliaia di anni. No, vi dico solo sta cosa, allora così la faccio breve, per dire che quello che stiamo dicendo non è solo storia e non rimanda solo a un altro quando, a chissà che cosa, ma fa parte della vita di tutti i giorni. Questo è il risvolto locale della vicenda No Global, l'aspetto sul quale gente come me, come Michele, come Francesco Cirillo ci siamo proprio fissati. Cioè, è strano quando tu vivi 30 anni, 40 nella tua città, ti vedi passare le ingiustizie peggiori della terra, sai che l'ultimo dei commercianti paga il suo pizzo, che i quartieri sono pieni di cocaina ed eroina, che ci sono delle logge massoniche che pilotano la vita pubblica in una maniera assolutamente indisturbata, alla luce del sole, un altro poco. Hai una classe politica che, io non so, gli aggettivi trovateli voi, perché basta guardarsi intorno. Stamattina ho sentito a quella trasmissione che fanno a Radio Rai, inviato speciale, sono venuti in provincia di Cosenza e il servizio era: com'è possibile che in un mare lungo 300-400 km lungo una costa nessuno può farsi più il bagno, no? Cioè, questa è la realtà in cui viviamo noi oggi. Cioè, abbiamo distrutto l'acqua, la terra, l'aria in 20 anni. Io quando avevo la vostra età facevo un bagno a Paola, a Guardia, meraviglioso. Oggi nessuno si può fare il bagno. E la colpa di chi è? Di Dio, del mare, dei flussi climatici? No, dei palazzinari di Cosenza che sono scesi giù sul Tirreno, che sono le famiglie potenti di questa città e hanno letteralmente devastato una costa. E poi delle ditte subappaltatrici, dei comuni che hanno dei rapporti di complicità vergognosi con queste ditte, invece di scaricare i rifiuti e i fanghi industriali dove dovrebbero. Saluto Salvatore, a proposito di carcere potrebbe spiegarmi meglio di me di che cosa si tratta, vero Salvatore? Cioè, ci sono delle responsabilità, ecco. Se moriamo di cancro, se viviamo in un posto chiamato Cosenza dove tutto sembra normale ma dove accadono le cose peggiori, noi sappiamo di che cosa sto parlando. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Stiamo trasmettendo lo speciale realizzato da Indie Radio in occasione dell'assemblea al CPOA Rialzo di Cosenza in relazione al processo di Cassazione alla rete del Sud Ribelle. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase. E l'ultima domanda sui casi di pacchi bomba di Equitalia. Sì, Salvatore, secondo me in maniera sintetica, non per voler fare la cronaca, il commento delle cose che dice, perché si spiega benissimo, però esprime una situazione di disagio in cui viviamo tutti noi in questa realtà sociale che è la nostra, no? E per questo ti sembra poi paradossale che le istituzioni che dovrebbero essere preposte a investigare, a reprimere altri tipi di fenomeni, perdano del tempo dietro agli ultras, dietro ai No Global, dietro appunto a Salvatore che poi è nella doppia veste, no? Cioè, veramente esiste un ufficio in questa città della questura cosentina che si occupa esclusivamente di questo. Allora, non è solo una riflessione sulla repressione in senso generale, no? Perché giustamente uno dice: ma se tu rompi le scatole, prima o poi le denunce le prendi. Se tu per affermare dei principi violi la legge, insomma, è anche scontato che ti vengano a cercare. Nessuno vuole l'impunità rispetto a quello che facciamo perché siamo convinti di farlo. Il problema è la sproporzione che c'è tra i mezzi che sono utilizzati nei confronti delle lotte sociali, delle case occupate, di mille fenomeni interessanti che ci sono in questa città e nel territorio, e quelli che invece non si usano per cercare di scovare il malaffare, i rapporti tra la politica e la mafia, che cos'è veramente la borghesia mafiosa in questa città. Allora capisci che gli stessi uomini che ti vengono dietro, che scrivono quintali di cazzate, che consegnano ai magistrati, poi sono gli uomini che chiudono gli occhi di fronte a fenomenologie, no? Di reato, cioè tipologie di reato ben più gravi. Guardate, questo è un documento che la Digos di Cosenza, che oggi si può rendere pubblico perché siamo stati citati a giudizio per l'occupazione della casa di Viale Trieste, il processo si terrà nel mese di luglio. Scrive la questura, vi dico brevemente il passaggio, no? Cioè, a un certo punto loro vanno dal magistrato e dicono: ci sono questi reati, queste persone, arrestateli per associazione a delinquere, no? L'ipotesi di accusa è quella. E scrivono: questa procura generale vuole mettere in evidenza la personalità di alcuni degli odierni indagati ritenuti responsabili dei fatti sopra esposti, al fine di lumeggiare i contorni di uno stabile patto associativo tra gli appartenenti ai locali centri sociali che fa trascendere i limiti della fattispecie concorsuale, sconfinando in quella più grave dell'associazione per delinquere. Come ogni volta accade, la fornace antagonista nella quale l'istinto propagandistico degli autonomi mira ad attrarre quante più menti possibile, meglio se giovani, viene esteticamente rivestita di forme accattivanti per le coscienze target, stimolate con l'idea di giuste lotte. Scusa Salvato, Salva, no, sì sì no, Salvato, vorrei poter, Salva, vabbè ha ragione, giusto, io ho il microfono, lui no. Nel caso di specie, il Comitato di Lotta per la Casa, operativo anche in altre realtà e non solo a Cosenza, a nome del quale in questa provincia sono stati commessi episodi d'occupazione analoghi a quello per il quale oggi si procede, vale ad ammantare di giustizia sociale un'azione delittuosa. Cioè loro così spiegano ai magistrati perché dovrebbero arrestare chi occupa le case e chi appoggia, no, questo tipo di lotte. E poi insomma, guardate, io non ve la faccio lunga, però a un certo punto dicono, dice, a riguardo, per la divulgazione mediatica di materiale informatico, informativo ed altro, i predetti centri utilizzano svariati canali informatici, siti internet, caselle di posta elettronica ed altro ancora, che fungono da tam tam per richiamare l'attenzione e la partecipazione agli eventi. Il senso vero dell'azione, altro che lotta per la casa, è chiaramente espresso nel volantino suddetto, di cui si allega una copia, e cioè mettere in discussione le grandi opere. TAV, Salerno Reggio Calabria, inceneritore di Gioia Tauro, Mose. Questa minoranza antagonista contesta che il palazzo in questione sarà cartolarizzato attraverso la società Patrimonio 1 e successivamente venduto per finanziare le suddette opere, ed ancora una volta pretende, mediante la commissione di reati, di forzare scelte politiche che il governo, espressione di una libera scelta democratica dei cittadini attraverso la partecipazione al voto, avrebbe deciso di realizzare. E poi insomma continua così, dice che il palazzo appartiene a BNP, cioè associazione a delinquere. Tu occupi le case, tu rivendichi il diritto ad avere un tetto, tu sei un delinquente. Il principio è quello, non solo sei un delinquente, sei un associato a delinquere. Lui mi chiedeva questa storia, chiudo veramente, dei pacchi bomba. Questo è un procedimento a mio carico di cui sono venuto a conoscenza per puro caso e risale al 2010. In sostanza arrivano delle telefonate anonime alla questura di Cosenza. Cosenza purtroppo è piena di persone che soffrono e a volte sono disturbate anche un po', insomma, sul piano mentale, per cui è normale che insomma qualcuno poi alzi la cornetta e dica delle cazzate al telefono. Io a 40 anni, mettendoci sempre la faccia, non mi sogno di andare a fare telefonata anonima alla questura. Beh, il dottore Cantafora sente la mia voce registrata al telefono della questura e della caserma dei carabinieri. Qualcuno annuncia l'arrivo di pacchi bomba e dice: non ho dubbi, è la voce di Dione Salvi. E porta in procura l'incartamento in cui lui sostiene che io faccio telefonate anonime a nome di chissà quale sigla. La mia voce viene mandata a Roma, avviene un confronto attraverso il computer con le voci registrate e il computer gli dice: guarda che c'è una possibilità su 250 che si tratti di lui, in realtà non è lui. Voi direte: ma questa è una buttata, è uno scherzo, un tiro mancino, una cosa che te l'ha fatta apposta. Se non fosse per il fatto che grazie a questo tipo di strumenti oggi la mia voce viaggia per tutte le procure d'Italia, le questure d'Italia, perché c'è un riscontro, anche se è un riscontro negativo, c'è un precedente. E allora è facile che si stiano confrontando le mie impronte digitali, la mia voce, con chi ha attuato delle azioni di un certo tipo negli ultimi mesi in questo paese. Tu mi chiedevi, fa parte della tradizione dei movimenti operai, sociali e contadini mandare dei pacchi? Beh, non lo so. Io posso dire, questo ce lo racconta la storia, che nell'Ottocento il movimento anarchico e anche all'inizio del Novecento, anche oltreoceano, questo Oscar Greco potrebbe spiegarlo meglio di me, che è uno storico che si occupa della storia dei movimenti anarchici, si esprimeva anche attraverso l'uso di un certo tipo di strumentazioni. Su quello che stia avvenendo oggi in Italia, a caldo non me la sento di esprimermi, mi limito a dire che loro sanno esattamente quello che stiamo facendo in questo momento noi stasera, quello che hanno fatto i compagni, le compagne un'ora fa a Via Milelli, quello che ha fatto Pino in Val di Susa, quello che facevo io a Genova e nei cortei che avete visto prima, cioè riprese televisive, azioni di denuncia, documenti, manifesti, protesta, la verità secondo il nostro punto di vista. Loro in questo paese da 30-40 anni sistematicamente utilizzano l'emergenza, le leggi speciali, la simulazione, cioè riescono sempre ad ammantare quello che facciamo di cose che non stanno né in cielo né in terra, perché hanno un obiettivo preciso, quello di limitare le libertà dei movimenti, insomma. L'obiettivo è quello, è la mistificazione, lo hanno imparato bene, perché comunque questa polizia, non dimentichiamolo, mi dispiace per chi ha fatto il film ACAB e poi alla fine ci ha dato ha attribuito ai poliziotti anche un pizzico di umanità, quasi di giustificazionismo. Questa polizia non è quella descritta da Pierpaolo Pasolini, il poliziotto proletario, figlio di contadini e di operai, che esce dalla campagna, che vuole il posto di lavoro. Questa è la polizia figlia del fascismo, figlia dell'epurazione di Scelba, dell'amnistia voluta da Togliatti, della celere. Cioè è un modello di polizia che non ha nulla da invidiare alle squadracce della milizia dei volontari del regime fascista, e che ha un volto democratico, che è quello che spesso vediamo in piazza nei cortei: ciao raga, come va? Ti offro la sigaretta, ti offro il caffè, perché in mezzo a loro è indiscutibile, ci sono anche degli esseri umani, delle persone che credono nel contratto che hanno firmato. Ma la sostanza pura di questi apparati investigativi, quelli che ci portano il 23 ancora a distanza di 10 anni a Roma e che potrebbero riportarci un'altra volta in corte d'assise, che hanno speso 3 milioni di euro per questo processo, la sostanza pura si chiama in un modo solo, ed è fascismo. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Stiamo trasmettendo lo speciale realizzato da Indy Radio in occasione dell'assemblea al CPOA Rialzo di Cosenza in relazione al processo di Cassazione alla rete del Sud Ribelle. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase. Se andiamo a Michele, ci racconta un po' qualche cosa di genere. Da raccontare ho veramente poco, visto anche l'ampio racconto che ha fatto Claudio di quella che è stata l'esperienza di Genova e di quel movimento in particolare. Però una considerazione, diciamo, mi viene rispetto a questo, che è un po', come dire, nel senno del poi. Odio generalmente dire avevo ragione, ma i contenuti di quel movimento, guardate, ce li ritroviamo tutti quanti oggi belli, spiaccicati e di fronte. Per cui, come dire, gli slogan di quei giorni erano no all'Europa delle banche, sì all'Europa dei popoli, non alla globalizzazione dei mercati, sì alla globalizzazione delle persone, tra virgolette, per usare questo eufemismo. E da qui, come dire, è nato il vero ragionamento. Oggi ci troviamo nella situazione che precisamente 12 anni fa fu descritta da quel movimento: il crollo della finanza cosiddetta creativa, la forbice che si divarica sempre di più tra chi ha e chi non ha, e via dicendo. Ecco, questo è l'elemento che mi fa riflettere anche all'interno, come dire, di quella che è stata la mia esperienza personale, individuale. Come Claudio direbbe, un agitatore politico, ma come compagno militante, diciamo, all'interno di quelli che sono stati i movimenti che si sono avvicendati nel tempo. E noi non siamo mai riusciti, o meglio, non sono mai riuscito a comprendere come mai tutto ciò che nel corso della mia storia noi abbiamo portato nelle piazze, che poi sistematicamente si è rivelato essere concreto e vero, non ha mai attecchito laddove doveva attecchire, non è stato mai oggetto di riflessione. Io l'altra sera guardavo Santoro, o come si chiama, servizio pubblico, dove c'era il Tremonti in versione no global. Non so se quanti di voi hanno visto questa puntata. Addirittura citava Impero di Toni Negri, e si trovava anche d'accordo con Casarini, che spesso lo incalzava dicendogli: guarda che a Genova noi stavamo dall'altra parte mentre tu facevi le fotografie insieme ai grandi della terra. Quindi, cioè, non è che oggi tu mi vieni a dire che la globalizzazione dei mercati è stato il più grande errore che gli statisti europei e mondiali hanno potuto mettere in campo. Ecco, come mai, è la domanda che pongo e che mi pongo, come mai, cioè, le cose che noi diciamo la gente non si caga proprio, diciamo, per... Eppure quando si parla di beni comuni, quando si parla di istituzioni totali, quando si parla di diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione. Cioè, non siamo marziani da questo punto di vista. Come mai quello che noi diciamo non viene recepito? Qualcuno mi ha risposto dicendo: sai, ma i grandi canali di comunicazione non sono al nostro servizio, per cui si fa fatica a... io non sono perfettamente d'accordo, perché anche dalle immagini del video che abbiamo visto di Claudio si vede quello che alcune dimensioni definivano la moltitudine, cioè migliaia e migliaia e migliaia di uomini e donne nelle piazze in un unico sentimento comune. È talmente trasversale anche quel movimento, in effetti dal video di Claudio si evince abbastanza bene. C'erano le situazioni più disparate, c'erano i di francescani scalzi e gli anarco-insurrezionalisti greci, cioè era veramente un mondo variegato. E lì la comunicazione ci fu, cioè il messaggio, tant'è che sempre seguendo anche l'ordine cronologico del montaggio del video di Claudio, si vede il corteo di Firenze che subito dopo i fatti di Genova portò in piazza, udite, 1 milione di persone. E non è una cosa che mi sto inventando io questa cifra, è un dato reale. A Firenze sfilò 1 milione di persone. Quindi vuol dire che il movimento aveva raggiunto l'obiettivo della comunicazione. Allora, qual è stato l'impedimento oggettivo a frenare questo sviluppo irresponsabile dei sistemi produttivi a livello mondiale? Perché non si è recepito che si andava inesorabilmente verso il declino? Questo lo pongo come riflessione. Io, alcuni sociologi più bravi di me, sicuramente, che hanno studiato più di me, mi spiegavano sta cosa dicendomi che sta tutto nella tecnica di comunicazione, cioè a dire su come metti insieme le parole, che capacità hai di mettere insieme le parole. Lo si può anche sperimentare al giorno d'oggi all'interno di questi social network, no? Per cui un post viene cliccato di più di un altro perché è riuscito a mettere insieme le parole, e l'alchimia, la magia, come mi ha insegnato pure un Salvatore nel corso di questo tempo, l'alchimia, la magia delle parole ti colpisce inevitabilmente. Sarà per questo fatto. Noi sostenevamo che il declino e quindi l'implosione di questo sistema produttivo era già iniziato 20 anni fa e non oggi. Certo, quando vivi la contemporaneità non te ne accorgi del declino, per cui non la senti, ma questo sistema ormai è al collasso, all'implosione. È questo che deve e dovrebbe essere il momento più opportuno per le forze politiche, sindacali, antagoniste, di mettersi in gioco, al di là di, come dire, di alcune situazioni. Penso a Roma, gli studenti, il movimento di questi movimenti, che poi, se dobbiamo guardarli con attenzione e con oggettività, spesso sono delle meteore che arrivano, passano e dopodiché si disperdono, non certo per incapacità programmatica delle persone che lo compongono, ma proprio per il contesto che si crea intorno a questo. Quindi dicevo, questo declino ormai è iniziato, eppure non c'è una risposta a questo. Certo, vediamo dalla televisione chi si arrampica sulla gru, chi mette in gambo la propria vertenza, la propria piccola o grande vertenza, ma che non si riesce a trovare un filo conduttore di queste realtà che permetterebbe, come dire, di ragionare su una scala, su scala più generale, più nazionale, più globale, direi io, e di studiare i metodi per intervenire adesso e non lasciare più in mano a chi ci ha portato a questo punto di nuovo la situazione. Questa è un'altra incapacità che, a partire da me, io vedo proprio, diciamo, diffusa. Tutti stanno in crisi, però nessuno a Cosenza, per esempio, dice niente. Si è discusso l'altra volta, e concludo il mio pesante intervento, Non voglio parlare di galera, così, sì, così, qua, perché ne ha già parlato Claudio, ne ha già parlato pure Salvatore, ha fatto degli accenni su questa cosa. La galera, qualcuno diceva, è l'umanità che soffre, lì dentro c'è l'umanità che soffre. Oggi è notizia di oggi che ci sono stati altri 3 suicidi nelle carceri italiane. La situazione è veramente esplosiva, bisognerebbe anche dire delle cose, ma ritorno e chiudo. Io l'altro giorno sono passato un po' da un'iniziativa che alla sede del CONI con il compagno Cremaschi sulla costruzione di questo cartello d'opposizione sociale nella città a quelle che sono le politiche che questa amministrazione, in particolare, più in generale l'amministrazione regionale, sta mettendo in campo, ma più nazionale, che il governo Monti sta mettendo in campo. Ma quello mi è sembrato di capire che fosse uno specifico cittadino, cioè costruire i cantieri sociali all'interno delle dinamiche urbane per proposte. Ebbene, oggi c'è stato un primo vero tentativo di, e anche devo dire ben riuscito, di opposizione reale alle politiche propagandistiche di questa amministrazione. Però io mi continuo a domandarmi, tutti quelli che hanno messo la firma a Chiru Manifesto, come mai oggi non erano a fare opposizione sociale al governo occhiuto di questa città? Perché è presto detto, perché spesso la politica, almeno per come la intendono chi su di essa ci mette delle aspettative di altra natura che non siano la passione o la polis classicamente intesa, non gliene frega niente oggettivamente. Perché se io penso che a quell'iniziativa c'erano 70 persone e oggi a manifestare, un fatto gravissimo, guardate, in questa città, un fatto di una gravità inaudita. Perché chi ha letto e chi è attento alle cronache locali avrà potuto leggere che l'amministrazione ha spacciato un centro d'accoglienza che di fatto non esiste, e l'intera città ha recepito questo messaggio come elemento positivo di questa amministrazione, dell'attenzione che ha verso i deboli, verso le fasce sociali e via dicendo. Ma è da tempo che promuove queste iniziative come il corso della solidarietà, le botteghe solidali, che non hanno mai avuto un minimo di rendicontazione politica e anche, mi permetto di dire, economica alla città. E allora, io ho avuto questa impressione, lo dico senza voler offendere nessuno dei firmatari di quel cartello, ho l'impressione, come dire, che siano una sorta di cartello preelettorale che deve spingere qualcuno all'interno di quella dinamica là, perché non esiste l'opposizione a Cosenza, perché l'opposizione intelligente oggi sarebbe stata presente a quell'iniziativa. Oggi un'opposizione istituzionale, consiliare, intelligente avrebbe chiesto pubblicamente le dimissioni di questo assessore, eppure non si leva un solo grido in questo senso. Allora io voglio dire, e concludo, secondo me c'è una sorta di assuefazione, ci siamo talmente assuefatti alle cose che ormai, come si dice a Cosenza, tira oi cavene a domani. È finito. No, non c'è bisogno, sta qua. Volevo sentire Giuseppe su quello che gli è accaduto e sulla militarizzazione delle lotte. Anche una cosa dice, no? Sì. Una cosa breve, la dico a tutti quanti perché vi è dovuta. Innanzitutto ringrazio questa città e tutta la penisola per la solidarietà che ho ricevuto in questi giorni e tuttora sta continuando a pervenire, e penso che sia giusto dedicare questa solidarietà che sto ricevendo e rilanciarla e dedicarla a tutti coloro i quali quotidianamente lottano contro i soprusi per la difesa dei diritti, per la tutela del territorio, dei beni comuni e soprattutto per la sostenibilità della vita. Io volevo dire una cosa semplice: ho visto questo video e 12 anni fa non c'ero a Genova. Sono figlio di Carlo Giuliani, mi occupavo di tutt'altro nella vita. Poi, alla morte di Carlo Giuliani, feci ingresso e cominciai a percorrere questa strada. E devo dire che l'ho fatto e sono stato consapevole di quello che stavo facendo grazie ai compagni di Cosenza, alle compagne e ai compagni di Cosenza, perché devo essere onesto con tutti coloro i quali mi stanno ascoltando in questo momento e soprattutto per i giovani che sono presenti e che sono coloro i quali devono darci il ricambio generazionale e continuare con questa speranza che noi costruiamo quotidianamente per le future generazioni. E devo dire che Cosenza è sempre stata una piazza presente, soprattutto l'analisi politica che ha fatto è sempre stata quella giusta, quella che ha tracciato materialmente quello che erano gli eventi che oggi dobbiamo affrontare quotidianamente. E quello che è successo a Genova, come diceva Michele, era lo specchietto che oggi si riflette sulle dinamiche economiche e sociali che stanno devastando i diritti, le tutele e i popoli del mondo. Quella voce era una voce vera e quelle voci danno fastidio e quelle voci vengono per forza represse, represse non dalla giustizia sociale, ma dall'ingiustizia sociale. Perché quello che ti può succedere, io ne vado fiero di quello che mi è successo, perché sicuramente mi ha dato ancora più energia per continuare a combattere ogni giorno sempre di più per come l'ho fatto fino a ieri, fino al giorno in cui si sono presentati a casa quelli della questura di Cosenza dicendomi aprici la porta perché ti dobbiamo un attimino controllare quello che c'hai dentro casa e soprattutto dobbiamo mandare un messaggio alla tua famiglia e tutti coloro i quali che ti circondano che tu devi mollare, che tu devi abbandonare e che la gente ti deve isolare. Questa cosa invece purtroppo non avviene, ma non purtroppo per noi, purtroppo per i soggetti che abitano in questura a Cosenza, purtroppo per coloro i quali intendono uno stato repressivo, purtroppo per coloro i quali forse materialmente non hanno capito che è importante mandare avanti la lotta. E Michele lo ha detto con chiarezza, perché dice Michele vi ho annoiato, chiedo scusa, invece Michele è stato chiaro, ha detto che c'è una difficoltà, però la difficoltà è quella dell'unificazione delle lotte, è quella che materialmente ci corre come obbligo una volta che interveniamo e partecipiamo e diamo le nostre firme a mandare avanti materialmente quelli che sono i progetti politici che dobbiamo mettere in piedi nel circuito di Cosenza. Quando arriva la polizia in casa e comincia a prenderti tutti quanti i vestiti e comincia a compararli con l'album fotografico in loro possesso e cominciano a vedere, tira fuori tutto quello che hai di nero in questa casa, tira fuori tutto quello che è il tuo vestiario, fammi vedere tutti i documenti, dammi il tuo computer, fammi aprire tutti i tuoi cassetti, dimmi dove abiti, dimmi quale spazio calpesti in questa casa. Io ho aperto la mia casa a loro perché era obbligo aprirla, ma gliel'avrei aperta anche senza mandato di perquisizione, perché casa mia è aperta a tutti, perché a casa mia non si nasconde niente, non si nasconde nemmeno, come si può dire, quello che deve essere materialmente la voglia di uscire da casa mia e di rendere casa mia il mondo, perché questo deve essere materialmente per quanto riguarda quello che è la condizione di chi subisce queste, non, come si può dire, che subisce questo tipo di repressione. Io non sono in grado di fare discorsi, è la prima volta che mi capita di doverlo fare e sono contento anche di avere subito questa situazione, perché capisco che cosa passano i compagni e le compagne, gli amici o le amiche che subiscono questioni del genere. E probabilmente se non mi capitava questo tipo di percorso non riuscivo a capire qual è l'importanza di essere presenti il 23 a Roma a sostegno dei compagni e delle compagne che devono passare l'ultimo turno in Cassazione del 23 al Palazzaccio. Perché materialmente che cosa succede? Succede che a un certo punto si rompe l'equilibrio con questa situazione e si comincia a percepire che probabilmente è importante quando ti capitano queste cose, perché probabilmente si dà fastidio e sono venuti praticamente forse dall'anello più debole che esiste a Cosenza rispetto a quello che potevano fare. E ripeto, se riusciamo a dare una testimonianza nostra è importante per il rispetto e la stima che va data ai compagni che sono stati inquisiti nel periodo del dopo Genova per il processo del Sud Ribelle, perché grazie a questi compagni io oggi mi ritrovo a parlare dietro a questo microfono, con la coscienza, perché mi hanno insegnato qual è la strada da percorrere, perché mi hanno dettato quali sono i legami con i popoli, perché mi hanno fatto capire che quando si esce la mattina da casa bisogna avere l'accortezza di pensare a tutti e non solo a se stessi, e perché materialmente è importante ed è fondamentale dare un contributo alla vita sociale del nostro paese, inteso non come Cosenza o come Rogliano da dove arrivo, ma inteso proprio a livello internazionale. Io mi fermo qui, non la voglio fare lunga e non vi voglio tediare, e volevo chiudere il mio intervento sostenendo una cosa importante: se qualcuno ha la possibilità, anche che i chilometri sono tanti, di percorrere un attimino questa penisola che in questi giorni ha il 23 sulla questione della Cassazione, per come dicevo prima, il 18 c'è la manifestazione nazionale della FIOM e poi il 25 c'è la manifestazione nazionale della NOTAV, al quale sarò presente e porterò, come ho fatto la volta scorsa, la testimonianza della nostra regione che è massacrata e torturata, che deve essere bonificata dalla mafia, dal malaffare, dall'inquinamento ambientale, dalla mala politica, da organizzazioni sindacali che sono solo burocratiche e pensano soltanto a se stesse e probabilmente campano sulle spalle di operai che buttano il sangue e buttano la vita all'interno delle fabbriche. Noi abbiamo questo tipo di responsabilità e spero che questo possa servire stasera per dare lo spunto alle nuove generazioni di scendere in piazza e, come diceva prima Claudio, non solo di manifestare i sabati o in occasione delle scioperi o delle domeniche, ma quotidianamente in ambito scolastico e in ambito sociale. E mi fermo qui. E mo voglio pigliare io. Per finire il discorso di prima, siccome c'è chi lotta veramente, come il comitato Prendo Casa, e come il Rialzo, come il Museo del Gusto, voglio finire il discorso di prima. Siccome non do colpa sicuramente al Rialzo, perché il Rialzo sta a vedere, cioè, fa di tutto per fare capire questo, quell'altro, chiede a me tutto quanto, solo che non c'è il buon senso, non c'è la buona coscienza, non c'è niente. Siccome queste persone, come il comitato Prendo Casa del Rialzo, subiscono quotidianamente l'approfittamento di queste persone che vivono qua a Rialzo, vivono nella casa occupata, perché non hanno proprio il... questa è la realtà. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Stiamo trasmettendo lo speciale realizzato da Inni Radio in occasione dell'assemblea al CPA Rialzo di Cosenza in relazione al processo di Cassazione alla rete del Sud Ribelle. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase. Chiudiamo qui per stasera. Rilanciamo la data del 23. Ricordo che stiamo organizzando i pullman. Chi vuole salire può contattarci nel Rialzo o agli imputati. E stanno pensando delle iniziative per autogestirci, autofinanziarci in vista del processo. Ci sarà una cena sociale, delle feste, siete invitati a partecipare. Sì, no, io volevo aggiungere una cosa a proposito di quello che diceva Salvatore, no? Ed è una considerazione che facciamo stasera, che speriamo che abbia un seguito. Io a 40 anni ho rinunciato completamente a lavorare per la costruzione di reti sociali in questa città, nel senso che mi sono scocciato dopo 20 anni avere a che fare con la soggettività, con alcune soggettività mi sono siccato, cioè Michele mi conosce, per diverse circostanze ho provato a dire: ma mettiamoci insieme tutti quelli che pensiamo in un mondo diverso, costruiamo delle reti. Penso che non ci sia più questa possibilità, cioè, penso che ognuno deve lavorare come sta lavorando il Rialzo o il comitato Prendo Casa nella sua singolarità, perché non è possibile dialogare a Cosenza per un motivo semplice, che è quello che dicevi tu prima: c'è un'ipocrisia di fondo. A seconda dei rapporti che si vanno a instaurare con l'amministrazione comunale, con la compagine di potere, le persone, i compagni cambiano vicendevolmente posizione. Per cui ho apprezzato molto l'iniziativa che avete fatto voi oggi, ve lo dico francamente, sul comune, perché non esiste più una voce di dissenso in questa città rispetto a quello che avviene al di fuori di Paolini. Siccome io non credo nei movimenti carismatici, quando ci devo credere, se devo andare dietro a qualcuno, vado dietro a Buddha, a Gandhi, non a Paolini. Per cui, cioè, per fortuna ci sono i compagni che hanno una capacità ancora di esprimere una critica rispetto a questa amministrazione, che rivendicano un'autonomia, perché per noi la politica e lo sociale è sempre stata la commissione di cooperazione e conflitto, non solo cooperazione. Se io volevo fare cooperazione in già la vita, pigliavo un aereo e veniva a una parte dove la cooperazione non ha senso. Se avessi voluto fare solo cooperazione, veniva stava in Palestina, veniva stava in Africa. La cooperazione per i compagni che fanno capo hanno un certo orientamento di idee, no? Da sinistra, come si dice, in basso, significa cooperazione e conflitto. Da questa città conflitto non si può fare più, perché non si può fare più, nel senso qualcuno ha deciso che non si dovrebbe fare più. Invece esperienze come quella che avete prodotto voi oggi e altre che avete messo in campo nelle ultime settimane dimostrano che si può esprimere ancora una critica. Ho chiuso, l'aspettiamo all'anniversario del suo mandato. Cioè bisognerà fare bilanci e bisognerà dire i nomi delle ditte che stanno facendo la manutenzione in questa città, di chi sono? Siamo sicuri che le procedure siano state espletate secondo i criteri di legge? Bisognerà dire le iniziative che questa amministrazione ha assunto per fare baracche e baracconi, quanti soldi sono stati spesi, a chi sono stati dati, perché sono stati spesi, il centro commerciale che vogliono realizzare a Piazza Ferro, la chiesa che dovrebbe sorgere qui dove dormono i migranti, dove i compagni fanno attività. Cioè, chi non ha il problema di andare ad elemosinare a questa amministrazione la sua confidenza, regalie, progetti, progettini e progettoni, continuerà a dire delle cose a Cosenza, sarà residuale, saremo un fatto di testimonianza, diventeremo una nicchia ecologica, un elemento di folklore in più, però continuiamo a lo fare, perché se no non lo fa nessuno. E se il prezzo da pagare per fare nomi e cognomi di chi appesta questa città e questa terra e ricevere le visite della Digos, non c'è nessun problema, lo facciamo con allegria, come ho fatto dopo il 15 ottobre, cioè lo facciamo con orgoglio, con felicità. Va bene, accomodatevi, prendetevi un caffè, cioè non abbiamo nulla di cui avere paura e da temere. Ultima cosa, facete male, a me un manifesto non mi dà una lira, non mi dà un centesimo, quindi lo dico in maniera spassionata. Io quando scrivo lo faccio per l'onore di poter collaborare con una testata. Il manifesto sta per chiudere. Hanno lanciato un appello che è veramente un appello di dignità, per cui mi rendo conto che i compagni in questa fase non hanno un centesimo, non lavorano, siete molti di voi straprecari, mi pare pure vergogna, vi facetevi l'abbonamento o compratevi un giornale. Però secondo me il manifesto tuttora, a distanza di 41 anni, è un pezzo della storia dei movimenti della sinistra eretica in questo paese, non è un organo di partito, e per chi come noi non ci ha mai messo piedi in un partito è un elemento in più per amare questa testata. Oggi chiede di sopravvivere, chiede una mano a tutti quelli che lo leggono, soprattutto ai più giovani. Io a 18 anni sono cresciuto leggendo il manifesto, quel poco che so di politica e di movimenti all'inizio l'ho appreso leggendo il manifesto. Poi come tutti fra di noi ho avuto dei momenti di forte critica nei confronti delle scelte politiche di questa testata, me ne sono allontanato proprio da lettore. Negli anni zero, negli ultimi anni, sono tornato ad avvicinarmi, perché il manifesto oggi dà spazio veramente a tutte le anime della sinistra. Non è un giornale di partito, mentre qualcuno forse vorrebbe farlo diventare tale, per cui guarda, la settimana prossima esce un servizio di Silvio Messinetti e mio sull'aeroporto di Sibari. Quando il manifesto non ci sarà più, io non lo so dove si potrà raccontare, scrivere un'inchiesta sull'aeroporto di Sibari, sui soldi che sono stati stanziati, sulle responsabilità grosse che ci sono all'interno di Sinistra e Libertà, all'interno di Rifondazione Comunista, all'interno degli enti locali guidati dal centro-sinistra, sull'inciucio che sta avvenendo fra la Regione Calabria e settori della politica di sinistra di questa provincia, in nome di un progetto che non porterà mai alla realizzazione di questa grande opera, che darà soldi all'Andrangheta, che finirà di distruggere un territorio già devastato come la piana di Sibari, che non porterà lo sviluppo, come lo chiamano loro, perché lo sviluppo non l'ha portato l'Eni, non l'ha portato Impregilo, non l'ha portato Terna, non l'ha portato la Marlane, non l'ha portato l'Exir, non l'ha portato Veoliano, non l'ha portato nessuno in questa regione. Hanno solo intenzione di succhiarci il sangue. Si può dire sta cosa? Chi lo dice? Chi la dice più sta cosa? La dice l'Anisticò, la rete. La dicono poche voci libere, pochissime. Mi spiace che molti compagni che lavorano per i giornali locali a Cosenza, io quando avevo 18, 20, 25, 30 anni pure mi divertivo a scribacchiare. ho cercato di vendere il meno possibile il culo. Ho l'impressione che ci sia una nuova moda in questa città, quella di diventare giornalisti vendendo il culo, essendo compagni. Chi se ne ha giù controsenso, col quale misurarsi. Lavorare per un editore significa lavorare per un datore di lavoro. No, è normale, tutti quanti dobbiamo scendere a compromessi. Io stesso lavoro per il Ministero della Pubblica Istruzione, però c'è dignità, cioè quando ci si mette a 90 gradi è finita la dignità, insomma, no? Quello non è più il tuo datore di lavoro, è il tuo padrone. Allora appiattirsi sulle scelte di pseudo direttori ed editori che vivono in questa città e sostenere ancora di essere compagni, media attivisti, liberi pubblicisti, è un altro controsenso, è un altro grosso controsenso. Cioè, perché bisogna raccontare la verità per come la vediamo, non per come i direttori ci dicono di raccontarla. E mi dispiace che negli ultimi mesi sui giornali locali ho letto delle grandi stronzate. Ci sono però anche delle voci che stanno facendo inchiesta, che fanno nomi e cognomi. Si può fare informazione, si può fare politica, si può fare denuncia in Calabria, li fa i nomi e i cognomi. Sparare contro la luna non serve a niente. Siamo pieni di giornali e telegiornali che sparano contro la luna. Il problema del lavoro, il problema della disoccupazione, il problema di questo e il problema di quell'altro. Non si capisce mai chi ne è che gestisce sti cliniche, chi ne è che gestisce sti, chi ne carapa sti cantieri, chi ne è che concede all'appalti, quali succhini che fanno l'accordi. Tutte le volte che qualcuno fa i nomi partano querele, partano minacce, partono piccole e grandi rappresaglie. Allora, secondo me il rialzo, e chiudo veramente, come il Comitato Prendo Casa, come alcune delle realtà che operano in questa zona, sono le ultime realtà che a Cosenza possono dire a voce alta delle cose senza che qualcuno bussi la sera stessa alla porta e chieda: ma come? Non eravamo amici? Ma come? Abbiamo mangiato insieme? Ma come? Sì, ma amici, e ti dico quello che penso. Ti dico che a livello politico fa cacà. Ti dico che la vita ha rubato i sordi. Ti dico che state sventrando una città. Ti dico che Cosenza è morta. O posso dire? O non posso dire? Sono posso dire un signor Ciurno compagno. Ringrazio tutti e ricordo ancora il 23 febbraio a Roma per la Cassazione, i pullman, la cena sociale e la festa. Grazie. E dal CPO Arialdo di Cosenza, Indie Radio vi saluta. Continuate ad ascoltare Transizione di Fase e la sua programmazione musicale.